con Marino Sinibaldi, curatore della decima edizione di Libri Come, all'Auditorium Parco della Musica a Roma dal 14 al 17 marzo 2019. Marino, ben trovato. Buongiorno, ciao. Raccontiamo intanto cos'è più in generale Libri Come. In generale è una speciale festa del libro e della lettura, nel senso che come altri festival, feste che ci sono in giro per l'Italia, è soprattutto un modo di presentare libri, conoscere autori, incontrare altri lettori, che è la ragione per cui questi festival si sono diffusi in tutto il paese e hanno anche un certo successo. In particolare Libri Come ha una inclinazione a un rapporto diretto con il lettore, a coinvolgere i lettori da molti punti di vista, infatti ci sono presentazioni, ci sarà un concerto musicale, ci sono forme teatrali o spettacolari non solo legate alla presentazione del libro in senso stretto. Ancora più specifico all'attenzione che noi facciamo ai temi del momento, cioè al fatto che la letteratura sia anche, la letteratura, la lettura in generale, uno degli strumenti che abbiamo per conoscere meglio il mondo, conoscerlo criticamente, cioè non accontentarsi solo delle sue rappresentazioni più schematiche. E infine c'è da dire che scegliendo ogni anno una parola chiave, una parola d'ordine di ogni edizione di Libri Come, in qualche modo costringiamo, tra virgolette, la letteratura, la nostra stessa passione per la lettura, a misurarsi con i grandi temi, i grandi conflitti del nostro tempo. Questo vale in particolare quest'anno, perché la parola che abbiamo scelto come parola chiave di tante occasioni di questa festa, di tanti appuntamenti che si svolgeranno questo fine settimana all'auditorium, è la parola libertà. Parola per molti versi scivolosa. Guarda, la cosa più interessante è che ogni intervistatore mi propone una domanda lievemente diversa sulla verità e sulla libertà, e questo dice qualcosa dell'atteggiamento che ognuno di noi, ognuno di voi ha rispetto a questa parola, no? C'è chi mi dice che è impegnativa, c'è chi mi dice che è abusata, c'è chi come te mi dice che è scivolosa. Guarda, c'è una vignetta di Mauro Piani all'ingresso, che ogni anno noi ospitiamo un grande vignettista, disegnatore, l'anno scorso è stato Altan, tanto per capire il livello. Quest'anno è Mauro Piani. C'è una vignetta all'ingresso che risponde alla tua domanda, però siccome vorrei che venissi a vederla non ti dico qual è, però risponde proprio a questo elemento scivoloso, come forse sai, Piani scrive, disegna e scrive perché è una forma di scrittura sull'espresso e sul manifesto, quindi ha un atteggiamento sicuramente non liberale classico, tantomeno liberista rispetto al tema della libertà, quindi ha ideato una vignetta che io ho fotografato stamattina proprio perché mette in imbarazzo anche me che ho scelto questa parola chiave, libertà, che mette in rilievo, senza, ripeto, svelare la sorpresa, ne mette in rilievo l'aspetto problematico, critico, anche l'eccessiva facilità con cui a volte si usa questa parola. Effettivamente è una parola scivolosa, una parola critica, una parola difficile, una parola abusata, secondo me è una parola decisiva proprio nel suo non essere retorica, perché la libertà retorica è ovunque, la libertà reale è un problema che si è acuito in questi tempi quando, come sappiamo tutti, sembrava almeno dal punto di vista delle libertà politiche essersi in qualche maniera risolto con la fine delle ideologie, la caduta dei muri, insomma tutta quell'ondata di speranze o di illusioni che abbiamo conosciuto. Come saranno strutturate le giornate? Guarda, le giornate all'auditorium hanno, diciamo, la parola strutturate non dico mi dà fastidio perché hai ragione a chiederlo, ma insomma non è che ha delle sale, l'auditorium è soprattutto, noi abbiamo preso degli spazi, gli spazi sono le sale grandi dell'auditorium che immagino i nostri ascoltatori conoscono, la sala Petrassi, il teatro studio dedicato, la cosa mi fa piacere, ho l'occasione di ricordarlo sempre a Gianni Borgna, le sale degli ospiti, le sale risonanze, cioè varie sale che ci sono nell'auditorium e poi due o tre studi, l'auditorium arte e due studi, due sale non più piccole, più particolari, dove si svolgono una miriade di appuntamenti, sono circa 300, tra presentazioni di libri in senso stretto, dibattiti, incontri, elementi come dicevo spettacolari, cioè c'è un grande concerto con le musiche dei film legato a Camilleri, insomma con le musiche degli spettacoli e delle trasmissioni televisive di Montalbano e di altri testi di Andrea Camilleri, cioè ci sono una varietà di cose. La struttura poi è quella che da domani pomeriggio alle 18 fino a domenica alle 22:30 non ci sarà tregua per chi ama i libri della lettura, è veramente un consiglio da lettore come sono da altri lettori, venite là e senza nemmeno pensare cosa fare, tanto la maggior parte degli eventi è gratuita, altri sono al costo simbolico di 3 euro. viene là uno e sceglie qualcosa, c'è sempre qualcosa, c'è sempre non uno, ma almeno due, tre, quattro eventi contemporanei di vari livelli con vari scrittori, bisogna dirlo, con scrittori molto onori, Javier Cercas per esempio, o Peter Cameron, o Gerico Carofiglio, per dire gli italiani, ma ci sono anche scrittori, io non posso dire rivendicare che siano sconosciuti, perché è proprio quella la nostra sfida, farvi conoscere scrittori che ancora non hanno incontrato i loro lettori e che secondo noi lo meritano. E quest'anno da questo punto di vista il programma è molto ricco, veramente varrebbe la pena di lasciarsi orientare non da quello che si conosce ma dalla propria curiosità. Ci sono tre autori spagnoli, tre francesi, tre inglesi, lo so che sembra una barzelletta, ma molto molto molto importanti, anche se non tutti ancora molto noti. Questo però per me è un merito non tanto di noi che l'abbiamo organizzata, ma anche di Musica per Roma, cioè della fondazione. L'auditorium che ci aiuta e che ha creduto in questo progetto. C'eravamo sentiti anche per la scorsa edizione. A un anno Sì, di molto. distanza, che direzione sta prendendo, anche considerata la realtà, digitale e virtuale, il libro? Questa è una domanda non più difficile, non, la risposta non può che essere complessa, complessa nel senso non schematica, perché da un certo punto di vista non è che tutto questo fiorire di festival, di appuntamenti, anche di attenzione. Ricordo che domenica viene presentata la dozzina del premio Strega, per esempio, all'Auditorium, all'interno di Libricome, e quindi inizia la stagione dei festival letterari e anche delle competizioni, dei premi, che come sai suscita molte, molte attenzioni, anche polemiche, ed è giusto, anche interessante che sia così. Quindi però non è che tutta questa attenzione che c'è di più intorno al mondo del libro, pensiamo che i grandi quotidiani hanno ormai tutti i supplementi, però non ha generato nuovi lettori, quindi è un panorama complesso, contraddittorio, da un lato i festival hanno successo, dall'altro le librerie, ahimè, sono ancora vuote. Io credo che stiamo vivendo una grande fase di transizione che non riguarda solo il libro, riguarda tutti i mezzi di comunicazione, compresa la radio per esempio, in cui tutti i nostri contenuti si stanno ridefinendo. Pensiamo solo al fatto che la ragione principale, la più antica per cui si legge un libro è quella di volersi far raccontare una storia, avere a disposizione una narrazione. Ebbene, noi, grazie alla televisione, in particolare a quel fenomeno che sono le serie televisive, ormai siamo pieni, saturi di narrazione, probabilmente questo indebolisce la forza specifica del libro. Non parlo per me, che rimango un lettore e vedo poche serie televisive, ma immagino che un adolescente che ha voglia di storie, questo bisogno, questo desiderio lo può realizzare anche con un videogioco, che sono forme di narrazione anche spesso evoluta, o con una serie televisiva, e questo rende più problematica la vita del libro. Ma attenzione, del libro come, diciamo, oggetto, del libro come mercato, ahimè, mi dispiace molto perché è un mercato che meriterebbe maggiore attenzione, ma non del libro come contenuto, non della narrazione. Ecco, quindi c'è una difficoltà, possiamo anche forse dire una crisi di alcuni modelli tradizionali nel campo dell'editoria come in altri campi, ma c'è una resistenza del desiderio di fondo, che è quella di raccontare e condividere storie. Sottolineo la parola condividere, perché non si spiegherebbe il successo dei festival, che veramente al di là dei libri come è enorme in tutta Italia, se non con questo bisogno di condividere qualcosa, di stare insieme per una ragione come la lettura, che è ritenuta una ragione positiva, costruttiva. Questo è molto importante anche dal punto di vista politico, se posso permettermi, perché è evidente che lì si esprime un sentimento anche politico che nelle forme tradizionali della politica trova risposte evidentemente insoddisfacenti o insufficienti e che quindi si riversa anche in questi spazi, anche per questo che ogni anno c'è una parola chiave come libertà, che è una parola nel senso più bello del termine, più alto del termine, politica. Allora, in chiusura ricordiamo l'appuntamento a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, dal 14 al 17 marzo 2019, con libri come l'edizione 2019 dedicata al tema Libertà. Un saluto e un ringraziamento al curatore Marino Sinibaldi. Un abbraccio, un in bocca al Grazie lupo e a presto, Marino. a voi. E spero di vedervi tutti all'auditorium. Arrivederci. Ciao.